Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Çizmeden her nevi tınıya rastlayabileceğiniz İtabella'da bu hafta da geçen programda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta Deandre, Conte, Iannacci, Igufi ve Gaetano bizlerleydi. Bugün Fred Buscaglione ile başlayalım isterim. Asıl adı Ferdinando Buscaglione olan Fred Buscaglione, 1921 doğumludur. Annesi de piyanist olan Buscaglione, ilk müzik eğitimini onlu yaşlarında Torino Giuseppe Verdi Konservatuvarı'nda almıştır. Özellikle 1950'lerde popüler olan müzisyenin ilk hiti olan Che Bambola radyonuzda. Che bambola. Trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo! Le gambe un po' rotendo, credi a me! Che bambola! Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola, dai, dai, dai, non farla stupida, sai, sai, sai, io son volubile, se non mi baci subito tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccio, poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione, finta il destro e di sinistro lei mi incolla ad un lampione. Che sventola! Spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va, faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà. Bambola! Buscaglione'den Che Bambola Açık Radyo'daydı. Fred Buscaglione'nin kendine has, hem şarkılarında hem de filmlerinde oynadığı karakter, viski seven, kadınlara meraklı komik bir gangsterdi. Sözlerini Leo Chiosio ile birlikte yazdığı bir İtalyan klasiği olan ve daha sonradan Johnny Dorelli, Bocelli ve Dalida tarafından da yorumlanan Love in Portofino'yu Buscaglione'den dinliyoruz. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino, a Portofino m'ha preso il cuore, nel dolce incanto del mattino. Il mare t'ha portato a me, so chiudo gli occhi a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. I found my love in Portofino. Down in the small Italian bay. And everything was so dear in Portofino. I found my way. The sun was shining as my feet. And so my words were just a few. I closed my eyes and so did she. Portofino, I still see you. There was a place made just for lovers. The skies and sea and friendly bar. Tables and chairs and lazy waiters. A curly boy playing guitar. And when it's night in Portofino, the stars are twinkling up above. I close my eyes and so vicino. In Portofino I found my love. I found my love. I found my love. I found my love. Love in Portofino radyonuzdaydı. 1960 yılında 38 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybeden Buscaglione, İtalyan müzik tarihinde yeri doldurulmaz hikaye anlatan şarkılar bırakmıştır. 1958 yılında yayınlanan az sonra dinleyeceğiniz şarkının da sözlerini yine Chiasso ile birlikte yazmışlardır. Bu parçada bir Amerikan dergisindeki cinayet haberinden ilham alarak şarkıda hikayesini anlatan kahraman metresi tarafından kurşunlanarak öldürülür. Eri Piccola Così radyonuzda. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì, così. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto m'hai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così. Eri piccola così, dinledik. Mutlaka ama mutlaka herkesin bir kere dinlediğini düşündüğüm İtalyan klasiklerinin sahibi Renato Carosone'ye geçiyoruz. 1920 Napoli doğumlu Carosone, özellikle Canzone Napolitano yani Napoli halk şarkılarını günümüz yorumlarıyla yeniden can vermiştir. Şarkı sözü yazarı Nicola Salerno ya da bilinen ismiyle Niza ve Carosone pek çok hite birlikte imza atmışlardır. Şimdi bunlardan birini dinleyeceğiz. Saracino, Napoli diyalektinde her kadının hayalini kurduğu esmer, bronzlaşmış suratlı, kıvırcık saçlı, yakışıklı erkek demek. Şarkının sözleri de birebir bunu anlatıyor zaten. Renato Carosone'den geliyor. O Saracino. O Saracino. O Saracino. Una sigaretta mocca, una mano rinda sacca, e se ne va a smargiassa per tutta la città. O Sarracino, o Sarracino, bello maglione. O Sarracino, o Sarracino, tutte femmine fa sospirare, e belle facce, e belle cose. La bionda s'avvelena e la bruna se ne muore e velena calamita. Chi ste femmina calla fa? O Sarracino, o Sarracino, bello guaglione e belle facce e belle core, tutte femmine fanno ammurare. Yılında Renato Carosone tarafından Enzo Bonaguara ile birlikte yazdığı bu şarkı ise Napoliten diyalektinde küçük salyangoz, bazı çevirilerde de kıvrık kilit anlamına gelse de aslında karısı Marisa'ya ithafen yazılmış tam bir Napoliten klasiği aşk şarkısıdır. Maruzzella radyonuzda. Oi chi sente e chi mo canta appresso a me, oi patramente, s'affaccia luna per vedere, per tutta sta marina da procitare a sì. casa dice guarda là, una femmina che fa. Maruzzella, Maruzzella, ti mise rin dall'occhio mare e mi mise in bietta a meno di dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima mi dice sì e dopo roccia mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella. E chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare e m'è venuta una voglia ardente di passare e viene di noi bella e dammi sta bucchella capa m'avvelenà e zucchero se fa. Maruzzella, Maruzzella, te mise rin dall'occhio mare e me mise in bietta a me tu dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima mi dice sì e dopo roccia mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella. Ora mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima mi dice sì e dopo roccia mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella. Maruzzella'yı dinlediniz. Karuzane'den. Çok erken yaşta 17 yaşında Napoli Konservatuvarı'ndan mezun olan Garuzzone, sonrasında müzik yaşamına ara vermeden devam etmiştir. 2001 yılında 81 yaşında Roma'da hayata veda eden Garuzzone ve Nisa tarafından 1958 yılında yazılan Petrol Arayan Napoli Bir Adamın ironik hikayesini anlatan Caravan Petrol, 1960 yılında ayrıca aynı isimle Garuzzone'nin de başrolünde oynadığı bir filme de ilham olmuştur. Parça Ceci di Giacomo yorumuyla da bilinir. Şimdi Garuzzone yorumuyla dinliyoruz. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Caravan Petrol. Canta Napoli. Caravan Napoli Petrol. Petrolifera. Caravan Petrol. Caravan. Ma già affittato nu camel. Ma già cattato nu turbante, nu turbandarina, scende con pennacchio rosso e blu. Co fiasca a mano da morriella, cerco petrolio americano, mentre appalla nei beduini, mentre canta nei tribù. Come si bella cavalla stu camella, con vino, con l'altra colla, con turbante un archile. Quasi curioso, mentre scava stu per tu, si scorda della non è cosa che ho petrolio non c'è sta. Alla alla alla, ma chi t'ha fatto fa? Come si bella cavalla stu camella, con vino, con l'altra colla, con turbante un archile. Co fiasca a mano e co camella, che guardi annanzi a folla a rete, rivuta faccio tu lede, non si può più camminare. Io mi è arrivato pazzariello. Se trovo sto da mano lì che mi scoppiva con tabacca, ma chi è sta lì, babà? Come si bella cavalla sto camello con pinoclatta con la coda di un archile. Uè, si curioso mentre scava sto portu, si scorda della donna e cose che ho petrolio non c'è sta. Come si bella cavalla sto camello con pinoclatta con la coda. I wanna yana. Non voglio più scava, ah, come so bella cavalla stu camello con binoclatra con la coda il band di un archile. Caravan petrol, caravan petrol, caravan petrol, caravan petrol, caravan, caravan petrol, caravan petrol, caravan petrol, caravan petrol, caravan petrol. Karavan Petrol radyonuzdaydı efendim. Şimdi başka bir dönemden bir başka Napoli sanatçıyla devam ediyoruz. 1942 doğumlu Maria Gabriella Ferri, özellikle Roma ve Napoliten popüler şarkılarının yorumlarıyla tanınan pop müzik şarkıcısı ve tiyatro oyuncusudur. 1960'larda Milano'da çeşitli kulüplerde sahneye çıkmaya başlayan Ferri, ilk albümünü kendi ismiyle yayınladı. Roma Canta albümünden aslında bir Armando Bosco şarkısı olan La Società dei Manianoccioni Ferri yorumuyla geliyor. Fadece largo che passamo noi sti giovanotti desta Roma bella. Ci sono ragazzi fatti col pennello e le ragazze famo innamorare. E le ragazze famo innamorare. Ma che ce frega, ma che ce importa, se lo starvino ci ha messo l'acqua. E noi adimo, e noi abbiamo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo. Ma però noi siamo quelli che ieri spondemo un coro. E meglio il vino dei castelli che testa zozza, società. E se per caso vi è il padrone di casa, del botto, della ghia e della pigione, e noi rispondiamo solo, t'amo pagato e te pagamo più, t'amo pagato e te pagamo più. Che ci rifrega, che ci rimporta, se lo starvino ci ha messo l'acqua, e noi adimo, e noi abbiamo, ci hai messo l'acqua. Non te pagamo, però noi siamo quelli che ieri spondemo un coro. A meglio il vino degli castelli che testa zozza, società. Ci piacciono i polli, la bacchia e le galline, perché so senza spine, non so come il baccalà. La società dei magnaccioni, la società della gioventù, a noi ci piace da mangiare bene, e non ci piace e la... Portece un altro litro e noi se lo bevemo e poi gli rispondemo. E beh, che c'è? Gabriella Ferri'nin en tanınan parçası olan Sempre, aynı isimle 1973 yılında yayınlanan albümünde yer alıyor. Bence bu albümün en dikkat çekici parçası, sözlerini Pier Pasolini'nin yazdığı, Romalı bir seks işçisinin valsi olan Il Valsar della Toppa, şimdi radyonuzda. Mezza fatta un quartino, ma dalla destra, ammazza che toppa. Annina e Rochetta e modesta e lassate me fa. Am vedi le foglie, am vedi la luna, am vedi le case, e chi l'ha mai vista con st'occhi ma via da cantare. Lassame verde e vada un'altra, stasera cocco niente da fa. E poi sono vecchia, c'ho 30 anni, ermono ancora e lo hai da guardare. Mamma mia, luci che vedo qua attorno, le vie delle staccio mi pare come del giorno di un'altra città. Che staria fa sfarfallare. Va via amoretto e fa la tenda, stasera godo la libertà, spara il guzzetto e torna a casa che mamma tua te sta aspettando. Mi sono preso la doppa e mo sto felice, ma non si llega a me, me sento tornata un fiore de virginità. Virginità, virginità, me sento tutta virginità, che sarà, che sarà. Il Valsar della Toppa'yı Gabriella Ferri'den dinledik. Bu parçanın bulunduğu Sempre albümü, sanatçının diğer albümleri gibi Roma ve Napoliten geleneksel parçalarına yer vermektedir. Şimdi albüme adını veren, sözlerini Mario Castellacci'nin yazdığı Herkesin Hikayesi Vardır, Hafızasında Yüzler Vardır, Her Şeyden Çok Hiçbir Şeyi Vardır diyen Sempre Açık Radyo'da. Ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente, tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, che sempre mi amerai, tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Che tu diventerai come un vecchio ritornello e nessuno canta più. Facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Gabriella Ferri'den Sempre'yi dinledik. Şimdi 60'ların 70'lerin efsane ismi Rita Pavone geliyor. Rita Pavone 1945 Torino doğumlu. Kısacık kırmızı saçları, 1.50'lik boyu, durmak bitmeyen enerjisiyle ünlü bir efsanedir. Tam bir showgirl'dur. 1963 yılında büyük üne kavuşan müzisyenin plak satışları aynı yıl 1 milyon kopyayı aştı. Sadece İtalya'da değil, Almanya, Fransa ve İsviçre'de hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan, 7 dilde şarkılar söyleyen Rita Pavone, Birleşik Krallık listelerine giren 8 İtalyan'dan biridir. Şimdi onu Nina Rota'nın beslediği, pek leziz Toskana halk yemeğini konu edinen Yaşasın Domatesli Mama, Viva la Pappa col Pomodoro'yu söylerken dinliyoruz. Ce l'ha insegnato che un popolo affamato farà rivoluzione. Ragion per quei famati abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la pappa pappa col pappa pappa pappa pomodoro. Viva la pappa pappa che un capo pappa pappa po lavoro. Viva la pappa pappa pappa pappa. Pancia che borbotta, è causa del complotto, è causa della lotta. Abbasso direttore, la zuppa ormai l'è cotta e noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa pappa, col pappa pappa pappa pomodoro. Viva la pappa pappa, che un capo pappa pappa po lavoro. Viva la pappa pappa pappa, col pappa. La Pappa col Pomodoro'yu Rita Pavone'den dinledik. Rita Pavone 1962'de amatör sanatçılar için düzenlenen Bilinmeyenler Festivali'ne katıldı ve kazandı. Ardından Pavone'nin başkalarıyla twist yaparım, rock yaparım, kıskanma, benim tutkum seninle mattone dansı yapmakta diye çevrilen komik şarkısı 2000 yapımı Arjantin filmi Nine Queens'in de finalinde çalan Il Ballo del Mattone geliyor. Ballo del mattone, non troppo canalite, se con gli altri ballo è twist. sua mattonella. No, non essere geloso, siccome gli altri fallo a questo. Non essere furioso, siccome gli altri fallo a rock. Conti, conti, conti, che sei la mia passione. Io ballo, il ballo del mattone. Lentamente, guancia a guancia, ti amo, tu mi dici che son bella, dondolando, abbracciati sulla stessa mattonella. No, non essere geloso, se con gli altri ballo il twist. Non essere furioso, se con gli altri ballo il rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione. Il ballo del mattone geldi Pavone'den. Özellikle 60'larda ve 70'lerde büyük şöhrete ulaşan Rita Pavone, 1968 yılında bir yetenek avcısı olan kocası Reno ile evlendi. Büyük oğlu bir radyo programcısı, küçük oğlu da kendisi gibi bir rockstar olan Rita, hala eşiyle birlikte İsviçre'de yaşıyor. Şimdi Rita Pavone'den çok güzel bir şarkı geliyor. Il Cege Cege Cege. İtabella'nın son konuğu, İtalya'ya rock'n'roll'u getiren adam olarak da bilinen 1938 doğumlu Adriana Celentano. Kariyerine diğer iki müzik dehası Enzo Iannacci ve Giorgio Gaber'le birlikte kurdukları rock'n'roll grubuyla başlar. Biri Fellini'nin Dolce Vita'sı olmak üzere 40'ı aşkın filmde rol alan Celentano aynı zamanda sıkı bir hayvan hakları savunucusudur. 1979 tarihli aynı adlı albümünden Soli geliyor. È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno.